si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Giorno e notte, domenica compresa, e non ci rinuncio per un funerale Capone. La nostra devastiamo tutto a casa, non ve vanno a senza tetto. Quello che trovo veramente incredibile è che siano stati fuori tante persone che adesso parlano, tra cui anche esponenti del partito dell'assessore che ha appena parlato, che sono stati fuori per anni da Roma mentre la mafia pigliava il controllo del territorio. Questo lo trovo incredibile, non che una persona si pigli 10 giorni di vacanza, e che se fosse tornata dalle ferie avrebbe dato un'ulteriore soddisfazione a questi signori. Questi signori si sono fatti il loro funerale Capone, hanno voluto sfidare la città. Benissimo, noi fonderemo con le regole. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Si può fare 18:30, 20:30, questa sera prolungamento di Focus Economia a causa delle turbulenze dei mercati finanziari. Cominciamo adesso, 800 24 00 24. Quello che avete sentito era l'assessore alla trasparenza del Comune di Roma, Sabella, che con una teoria abbastanza interessante dice: se fossi rientrato dalle ferie per via di questo caso dei Casa Monica, le avrei dato soddisfazione, sarebbe stato dargli soddisfazione. Ah, quindi è rimasto in ferie per non dare soddisfazione. Per non dare soddisfazione è come Casa se Monica. Uno, che ne so, se lì arriva un branco di calabroni e tu dici: adesso io non faccio niente per non dargli soddisfazione. Quindi ti distruggo e tu stai lì e dici: però torno a Natale per non dargli, diciamo, soddisfazione. Esatto. E un funerale cafone per l'assessore Sabella, questo è quello di cui si è trattato. Ma sentiamo, cari ascoltatori, le voci nei diverse trasmissioni televisive dei parenti dei Casa Monica, che, diciamo così, si commentano da sole. Non avete scusi. Facevamo il Nino di Mamei. Era quello per voi. Mi scusi, però, signor Casa Monica. La prossima volta speriamo che lo famo per voi, funerale col Nino di Mamei. Ce l'ha dato lui i soldi per fare il funerale. No. Signor Savini, non si preoccupi, quando schiatta lei muore lei. Vedevo le signore che urlavano, sbraitavano, ma se uno sbaglia una volta è una brava persona, e quelli che hanno gettato l'acido, oh, ma qua siamo su scherzi a parte. Andiamo, ma questa è la capitale d'Italia. Io lavoro dentro un albergo da 7 anni e se perdo il posto di lavoro perché per il nome Casa Monica, io vado a casa di Salvini a mangiare. Voi dite di essere nulla tenenti, ma come avete fatto a pagare un liberale così infastoso? Ma chi lo dice nulla tenenti? Chi lo dice? Noi vediamo. 800 24 00 24, cari amici all'ascolto, questo è il tema che domina ancora. Oggi c'è stata la conferenza stampa del prefetto di Roma Gabrielli, che ora lo sentiremo un passaggio, insomma, ha detto: le informazioni c'erano ma non sono arrivate ai vertici dell'autorità, della prefettura. Infatti parla di una nuova intelligence che adesso... Sì, un'interforze. Esatto, un'interforze. Mafiosi di tutto il mondo, tremate. Che arriva, ecco, l'interforza. Perfetto. Signori, io sono Mister Ok, il rapper giusto per lui e per lei. Provo di... Io non ho mai detto che sarebbero rotolate teste. Io ho sempre detto che la cosa era grave e che necessitavano delle risposte. Le teste, se del caso, le fa rotolare il ministro, a partire dalla mia. Quanto sia grave la situazione lo spiega Gratteri, pubblico ministero Gratteri, sentiamo. Si decide, per motivi di sicurezza, per motivi di ordine pubblico, di vietare i funerali. Infatti si fanno svolgere alle 6 di mattina, senza corteo, proprio per evitare questa esternazione, questa forza. Quando accadono di queste cose perdiamo anni di credibilità nel contrasto alle mafie. Questo è quello che dice il PM antimafia, che Nicola Gratteri: perdiamo anni di credibilità nella lotta alla mafia. Quindi, se crediamo a lui, dobbiamo immaginare che, insomma, non si è trattato proprio solo di un funerale sfarzoso. No, è vero però che quello che dice Gratteri, che è molto condivisibile, è in caso di una condanna certa, perché questo tipo di decisione si può prendere nel momento in cui dice: questo è un mafioso conclamato. Però Casa Monica non aveva nessuna condanna, quindi diventa difficile dire: io ti aveva vieto avuto per questioni di sicurezza, una condanna per truffa, solo una condanna per truffa per l'acquisto di una Ferrari. Beh, era scampato da diverse accuse. Non è, direi, sufficiente per vietare un funerale a un orario più civile. Però, insomma, era di fatto uno dei capi, uno dei boss del clan Casa Monica, che, come ha ricordato Gabrielli, oltre 100 arresti in 5 anni, avevano le mani in pasta e ovunque. Sentiamo ancora qualcuno dei familiari con queste invettive anche contro i conduttori delle trasmissioni, a cui augurano funerali presto per loro. Quanti voti controllate? Sentite Travaglio prima, che diceva che voi potete, avete molti voti. Allora, posso dire una cosa: a noi dei voti non ci interessa, e a politica non ci interessa, non mangiamo politica. Io non ho mai avuto rapporti con politici, perché è inutile. Conosce personalmente politici parlamentari o anche locali? Anche se io ho conosciuto politici parlamentari e tutto il resto, ma qui non stiamo a parlare di un Parlamento, non stiamo a Piazza del Parlamento, qui stiamo a parlare di Casa Monica, che è morto. Però ci faccia capire una cosa. A parlare della mia cultura, quando parliamo pulitevi la bocca con la varecchina. Addirittura, capito? Pulitevi la bocca con la varecchina quando stiamo a parlare della sua cultura. 800 24 00 24. Questo invece, Carlo, è un argomento che tu dovresti conoscere. Siamo al meeting di Comune Liberazione, sì, il signori. Meeting di CL, e un giornalista di Repubblica è andato in maniera molto intelligente e simpatica a sottoporre all'attenzione di alcuni partecipanti al meeting, ragazzi che passavano di lì, eccetera eccetera, i libri che Brugnaro, il sindaco di Venezia, ha fatto togliere dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole materne di Venezia, perché di sono libri della teoria gender, la famosa. Noi a lungo abbiamo parlato. E questi ragazzi sentono i passaggi di questo libro e dicono: beh, che c'è di strano? Sono i famosi libri censurati da Brugnaro. E perché? Esatto. E non sanno darsi una spiegazione. Sono felicissimo di questa notizia. Quando l'ho letta ero veramente contentissimo, perché qua ne abbiamo parlato lungamente. Per esempio, proprio Piccolo Blu e Piccolo Giallo, che come sostenevo durante le trasmissioni, è un libro che è veramente un caposaldo per sull'inclusione, sulle differenze. C'è anche Piccolo Blu e Piccolo Giallo, sentiamoli. Ti sembra un libro pericoloso? No. È un libro per l'infanzia? Sì. È uno di quei libri che il sindaco di Venezia vorrebbe togliere dalle scuole. Ma secondo te un libro del genere potrebbe essere... Ma adesso da queste pagine mi sembrano abbastanza tranquille. Che te ne pare? Carino. Libro per bambini? Io per bambini, sì. Questo? Semplice. È uno di quei libri che il sindaco di Venezia ha posto all'indice. Come mai? Perché secondo il sindaco di Venezia non sarebbe adatto per una scuola, per essere introdotto all'interno delle scuole. Perché? Troppo difficile? Strano. Che? Non lo so, non riesco a capire. Parla di colori. Che pare sia un libro pericoloso. Perché è un libro pericoloso? E chi lo sa, perché no, in realtà ci sono persone che sostengono che siano libri molto pericolosi. L'abbiamo anche intervistato alcuni di loro. Ogni opinione è rispettabile. È molto bella la risposta, troppo difficile. Non so se avete in mente Piccolo Giallo e Piccolo Blu, come si stava parlando di quel libro lì. Era talmente disorientato quello lì che diceva: forse per questo. Sì, ma c'erano tipo tre parole per ogni pagina. Parlano dell'incredibile problema di un pallino giallo che non riesce a integrarsi in una tribù di pallini blu. Insomma. E infine le affermazioni assolutamente farneticanti di Don Giorgio Carbone, che hanno fatto, insomma, discutere, l'hanno sentito tutti, sempre dal meeting di CL. Sentiamo. Gli studi statistici, e io cito nel mio testo lo studio statistico più ampio che esista, cioè su 6 milioni e mezzo di persone danesi del Regno di Danimarca, e lì si evince che le coppie eterosessuali sono esposte a minori rischi cardiovascolari, respiratori, suicidio, tentato suicidio e AIDS, infinitamente minori alle coppie dello stesso sesso conviventi o sposate nel Regno di Danimarca. We are family. al sottosegretario delle riforme Ivan Scalfarotto. Buonasera a voi. Sera Scalfarotto. Allora, insomma, mentre il governo annuncia che ci sarà una legge entro la fine dell'anno, vedremo quale, sulle unioni civili, in testo c'è già, abbiamo Don Giorgio, predicatore domenicano, che al meeting di CL va giù durissimo, e parlando di cose assurde, l'abbiamo appena sentito, le coppie omosessuali che si ammalano di più, addirittura rischio cardiovascolare, cose incredibili. Perché dobbiamo sentire ancora questo? Anche cose? Problemi respiratori, così ci tengo ad aggiungere perché sono importanti. Ma a parte il fatto che io mi preoccuperei del crepacuore che viene alle coppie italiane che non si possono sposare, mi sembra un argomento più interessante. Cioè uno dice, può anche morire di cuore perché ti mancano. No, ma era una battuta, sì, per dire che ahimè noi italiani, rispetto a quelli sposati nel Regno di Danimarca, abbiamo il problema che noi, non essendo nel Regno di Danimarca, non ci possiamo sposare. Ma in realtà io francamente ho cessato di ascoltare queste scemenze, perché non si possono definire in nessun altro modo. Ma perché il meeting di CL, che pure è un, diciamo, un podio, un palco, un luogo anche abbastanza autorevole, togliamo abbastanza autorevole, ci vanno ministri, esponenti di governo, segretari di partito, intellettuali, perché dà spazio a queste tesi, non so come definirle? Ma devo dire, io a parte il fatto che tengo a dire che lo studio danese che il padre domenicano citava dice esattamente il contrario, peraltro. Dice proprio il contrario, dice che invece che le coppie appunto sposate nel Regno di Danimarca stanno benissimo, nel senso che corrono forse meno rischi di questo genere, ma comunque il discorso ovviamente la strumentalità del ciò che è stato detto, ma da quello che mi risulta, però leggevo sui giornali di oggi che gli organizzatori del meeting hanno però cancellato ogni ulteriore show di questo padre domenicano, e quindi è stato tirato il sasso in qualche modo, e poi perché penso che immaginassero quali erano le sue tesi di questo predicatore domenicano. Sì, ma guardi, ci sono persone che girano l'Italia, c'è questo presidente dei cosiddetti turisti per la vita che gira l'Italia dicendo cose tipo che se noi consideriamo che il matrimonio è soltanto una cosa basata sull'amore, allora dovremmo far sposare gli uomini con i propri cani. E questo dice queste cose in giro per l'Italia senza che nessuno se ne preoccupi più di tanto. Io ho avuto occasione, in un'unica occasione, di fare un dibattito con lui in un liceo romano e ho dovuto sentire cose di questo genere. Però io le dico, guardi, ci sono leader politici che dicono cose altrettanto terribili. Io ogni tanto scorro la mia timeline su Twitter e dovessi, come dire, e mi indigno abbastanza ogni qualvolta leggo le cose che dice Salvini sugli immigrati o sui rifugiati. Ahimè, siamo davanti a un imbarbarimento del linguaggio politico che anche preoccupa, perché non ci si rende conto poi che le parole sono assolutamente delle pietre, perché cose di questo tipo alle persone che vivono quelle situazioni ovviamente. Ma scusi, Don Giorgio, lei lo paragona a Salvini, perché Salvini ha delle posizioni sull'immigrazione che lei non condivide, però invita, diciamo, a stop invasione, stop sbarchi, eccetera. Fa delle critiche, secondo me, in alcuni casi anche giuste. Adesso ne parliamo, su come il governo gestisce l'immigrazione. Non mi riferisco alle critiche del governo, mi riferisco a un discorso che parla, diciamo, ai peggiori istinti dei nostri concittadini. Ma anche Salvini farnetica, perché secondo me Don Giorgio è uno che farnetica. Ma io penso che quando tu non ti metti nei panni delle persone delle quali parli e ti utilizzi un linguaggio che, come dire, solletica gli istinti più bassi, l'egoismo, la conservazione del proprio piccolo privilegio contro altre persone le quali sono mosse da motivazioni, cioè voglio dire, i rifugiati che scappano dalla Siria non tentano di venire qui diciamo sulla base di desideri di tipo turistico. Io credo che aiuterebbe di più il dibattito pubblico se si affrontassero questi argomenti rispettandone la complessità e non lavorando sul contrasto poi di quella che diventa una guerra tra poveri. Ecco, questo voglio dire, nel senso che la politica secondo me dovrebbe dare degli argomenti di riflessione un pochino più profondi, semplificando magari un pochino meno e cercando di evitare di mettere poi le persone le une contro le altre perché questo non aiuta nessuno. Non quindi aiuta più preoccupa, quasi più preoccupato dalle affermazioni dei politici, anzi sicuramente più preoccupato che non da quelle di Don Giorgio. Anche perché forse da un certo punto di vista nel momento che lo fa un politico sono affermazioni più gravi, perché nel momento che lo fa anche lo stesso Bagnasco o Carbone, in realtà siccome lo Stato è laico continuiamo a pensare che loro possono avere qualunque tipo di posizione, ma è la posizione della Chiesa che non dovrebbe essere quella del governo. Sono più preoccupanti queste posizioni nel momento che arrivano da qualcuno che siede in Parlamento, giusto? Sì, diciamo che Don Giorgio, con tutto il rispetto, fino all'altro ieri non sapevamo assolutamente se fosse Salvini, è uno che secondo gli ultimi sondaggi riceve la fiducia del 15% certo, degli italiani, quindi diciamo che preoccupa. No, a me ha preoccupato di Don Giorgio che abbia anche detto perché la partita non sia persa servono manifestazioni di piazza, non solo le sentinelle ma anche cose come il Family Day. Questo mi preoccupa. Ma io poi ripeto, alla fine ciascuno, giustamente come dicevi tu Carlo, in una democrazia è libero di manifestare per quello che vuole. Sarebbe però bello dall'altro lato che le persone che genericamente hanno opinioni diverse fossero così entusiaste nel sostenerle. Cioè la cosa che a me colpisce è che le persone che combattono contro i diritti civili lo fanno con una passione, una determinazione che ha dell'ammirevole in un certo qual modo, mentre invece chi lavora per l'emancipazione, per il progresso, per l'apertura, per l'inclusione, lo fa sempre un po' quasi come se dovesse scusarsi per questo, no? Certo. Gli attacchi che provengono dal mondo cattolico sono sempre molto assertivi, sono sempre molto va bene, forti. Devo fare una pausa per il traffico. Scalfarotto, resti con noi, tra un minuto torniamo subito. A dopo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Eccoci qua di nuovo. Buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Di nuovo in compagnia di Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme. Altro tema, il funerale di Casamonica a Roma. Sono passati 4 giorni. Al di là di qualche frase di circostanza, quello che secondo l'uomo che voi avete chiamato per migliorare le norme antimafia, il PM Gratteri, è una cosa che ci fa perdere anni nella lotta alla mafia, non è successo nulla. Alfano tace, non c'è nessuno che è responsabile di questa cosa che secondo Gratteri è gravissima. No, certamente gravissima sul piano simbolico, sul piano proprio anche dell'arroganza, perché evidentemente chi ci si immagina che chi traffica nel malaffare, nella mafia, lo faccia sempre in un certo senso nascondendosi, no? Facendo i suoi loschi traffici al buio. E invece quando appunto chi non è esattamente un cittadino modello di questo suo, di queste sue condotte, ne fa un argomento, un motivo di vanto, addirittura lo fa diventare in un certo senso qualcosa di cui da manifestare in modo così aperto, è chiaro che anche rispetto alla coscienza di chi magari si comporta bene, paga le tasse. Perché c'è qualcuno che minimizza, Scalfarotto, vuole minimizzare tra questi oppure il fatto è molto grave secondo lei? Non ho capito. Secondo me io penso che il fatto sia grave, ma sia grave soprattutto da un punto di vista culturale. Poi ha ragione anche Gabardini, l'ossessivo in introduzione, dicendo che poi alla fine siamo in uno stato di diritto e quindi è evidente che quando poi tu vai a stabilire delle norme di comportamento lo devi fare sempre sulla base della presunzione di innocenza. Quindi lui che non era un uomo, non era condannato, tutto sommato il funerale avrebbe dovuto comunque farlo, anche nel modo in cui è stato fatto. Allora, ma guarda, ho letto una cosa molto bella di Cristiana Alicata qualche giorno fa, che diceva che ha visto matrimoni molto più pacchiani da parte di persone che sono assolutamente irreprensibili. Il punto secondo me è che chiaramente se tu non puoi limitare da un punto di vista legale, perché non ne hai gli strumenti, perché ripeto, alla fine davanti alla legge tutti i cittadini fino a una sentenza passata in giudicato sono uguali, quindi non hai strumenti legali per poterlo bloccare. Però quello che non si può vietare il kitsch per legge. No, non si può vietare nulla che il codice penale non vieti. Però non è stata una manifestazione dal punto di vista simbolico. Certo, pessima. Quello che preoccupa è la tracotanza, quello che preoccupa è la, ripeto, mentre normalmente noi pensiamo che in una situazione nella quale l'ordine è tenuto, chi fa, chi commette dei delitti tende a farlo di nascosto. Sì. Nel momento in cui invece io decido di dare una dimostrazione muscolare, perché di questo sì, si è trattato. Però anche i funerali possono essere autorizzati in una certa maniera. Ci sono delle persone che erano agli arresti domiciliari che sono state autorizzate ad uscire per andare ai funerali. C'era certo. Un corteo di diversi chilometri. Lo stesso Gratteri ha detto: in altre situazioni il funerale lo fai all'alba, la mattina non lo vede nessuno, esatto, tra sì, pochi sì, intimi. No, io, quindi qualcuno che chiaro. Ha sbagliato c'è da qualche parte o no? Ma questo non capisco. Fuori discussione, se ci sono state delle norme che non sono state rispettate, evidentemente chi non le ha fatte rispettare se ne deve assumere la responsabilità, però rendiamoci anche conto che ci muoviamo in un terreno difficile, perché noi siamo sempre tutti garantisti quando diciamo così a parole, e poi naturalmente il garantismo è una cosa molto complicata da difendere. Per questo quello che penso è che la cosa che mi preoccupa è pensare che una famiglia di quel genere, che ha quelle implicazioni, quella cultura, come diceva il signore prima della varichina, si senta così forte da poter appunto fare una manifestazione di quel genere, così evidente, così di presenza, di potere. È una cosa che evidentemente dà fastidio e che indica che queste persone hanno un senso di come dire, di impunità che gli consente di fare questo. D'altro canto va anche detto che è giusto che noi diciamo anche ai nostri, a chi ci ascolta in radio, che in uno stato di diritto quello che è permesso deve essere permesso, e cioè se tu puoi applicare delle norme devi farlo con tutte le garanzie del caso, cioè ci deve essere un giusto processo, la possibilità di difendersi, e certe cose le puoi vietare soltanto se la legge lo prevede, se una legge approvata dal Parlamento con tutte le garanzie che ma quindi prevede. Ha fatto bene Marino a rimanere in vacanza dove era a New York, l'assessore Sabella a non rientrare, perché l'abbiamo sentito poco fa, l'assessore alla trasparenza chiamato da Marino proprio per la legalità a dire non sono rientrato per non dare soddisfazione a Casa Monica. No, lei molto, diciamo in modo molto simpatico, mi vuole portare su una polemica personale su Sabella, su Marino. No, no, non personale, le chiedo un'opinione sul sindaco di Roma. Questo non vorrei. Ma no, ma guardi, il sindaco di Roma secondo me ha altre competenze, diciamo, e cose per le quali non andare in ferie rispetto al funerale di un singolo cittadino. Quello che penso è che ci sono sicuramente state, possono esserci state delle violazioni di norme che andavano fatte rispettare, cioè dall'autorità di pubblica sicurezza, dalla magistratura, eventualmente anche dalla prefettura, non credo particolarmente dal sindaco, e se violazioni ci sono state vanno punite. Va anche sottolineato, ripeto ancora una volta, che chiunque, anche il peggiore dei criminali, in questo nostro paese deve avere tutte le garanzie che spettano a tutti i cittadini. Giustissimo. Quello che mi preoccupa, ripeto, è il clima, perché se in un clima di un certo genere chi normalmente commetterebbe dei crimini, chi volesse commettere dei crimini, in genere lo farebbe di nascosto, se invece vuol farsi vedere in questo modo così eclatante, evidentemente vuol lanciare un messaggio che dice: io mi sento libero di fare un po' quello che voglio, e questo non va bene. Io sono molto d'accordo che in realtà non è tanto un problema di legalità, ma quasi di opportunità. Cioè siamo preoccupati perché abbiamo visto questo tipo di funerale, più che indignati per la legalità o meno. A parte forse il permesso per l'elicottero, che non abbiamo capito se qualcuno gliel'ha dato o non gliel'ha dato. Sì, ma per il resto è giusto che finché non c'è una condanna. Sì, sì, ma sono d'accordo, nel senso che finché non c'è una condanna. Quello che veramente preoccupa è che se una famiglia, diciamo, che ha una metodologia mafiosa decide nella capitale del paese di dare un segno di forza di questo genere, vuol dire che si sente talmente sicura di sé che questo ci deve far preoccupare. Cioè quello che preoccupa è questo, più che la licenza dell'elicotterista o il permesso di andare al funerale al singolo partecipante al funerale, perché questi sono dettagli. Diciamo, guardiamo gli alberi e ci perdiamo la foresta. Sì, sì, sono molto d'accordo. La preoccupazione è che loro un po' simbolicamente hanno voluto dire: c'è uno spazio vuoto che prendiamo noi, o meglio, lo spazio esatto. Non è vuoto, ci siamo noi. E soprattutto ad agosto a Roma, quando però, appunto, allora, i politici scusate, sono in vacanza. Però allora come ha detto Gabrielli, mafia, qualche peraltro. Testa dovrebbe rotolare. Lo farà Alfano, non lo fa Gabrielli perché non è suo compito, però Alfano qualcosa dovrà fare. Vediamo, può darsi che lo faccia, può darsi anche che lo faccia giustamente acquisendo tutte le informazioni che sono necessarie perché lo faccia, e secondo me chi ha responsabilità di governo non deve soltanto rispondere alla giusta indignazione dei cittadini, ma deve avere il tempo di riflettere e di prendere delle decisioni ponderate. Io mi aspetto che questo accada. Va bene, grazie. Buona grazie serata, mille. Scalfarotto. Buona serata. Arrivederci, grazie. 800 24 00 24. Atteggiamento prudente, quasi titubante, direi, su questa questione qua. Possibilista da parte del sottosegretario Scalfarotto. Ci fermiamo, GR, torniamo tra pochissimo. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Il super cartone, eccolo qua. Allora, giorno e notte, domenica compresa, e non ci rinuncio per un funerale Capone. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori, con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. E quello che avete sentito e avete risentito è l'assessore alla trasparenza del Comune di Roma, Sabella, che dice: io alle ferie non ci rinuncio per un funerale Cafone. Cioè, per lui alla fine di questo si è trattato, niente di più, il funerale dei Casa Monica. I parenti invitati in varie trasmissioni televisive, queste sono le loro voci, sentiamo. Allora, volevo chiarire una cosa: il messaggio mafioso non esiste, perché se noi facciamo un messaggio mafioso, perché noi non siamo in grado di essere la mafia. La vera mafia sono i politici, hanno preso tutti i soldi della povera gente. Piotta roba coatta, super cafoni. Allora, noi abbiamo scelto il padrino perché è stata una richiesta della morte di zio Vittorio che ci ha chiesto questa canzone. Signore e signori, io sono Marco Travaglio. Sentiamo ancora nell'ordine che dice: non si diventa re di Roma solo con i cavalli. E poi Ruocco, del direttore del Movimento 5 Stelle, che chiede le dimissioni di Marino e di Alfano. Non si diventa re di Roma vendendo cavalli, non credo che il commercio di cavalli sia la principale attività e la più lucrosa in una città come la capitale d'Italia. Roma è stata abbandonata da tutti, la sicurezza in ferie con Alfano. Alfano e Marino devono dimettersi, dare la possibilità ai cittadini romani di tornare a votare e di scegliersi nuovi rappresentanti. È lo zio del rock, è con noi Omar Pedrini. Ciao a tutti. Ciao Omar, ciao. Benvenuto. E quella che sentiamo in sottofondo è Sorridimi. Sorridimi. L'ultimo singolo. Sì, diciamo è un instant song che ho pubblicato, visto che l'avevo incisa, sai, l'anno scorso ho avuto qualche problemuccio. Ma tu non ti fermi mai. Ho interrotto la tournée a metà strada, sì, per quello, per un problema di salute. Sono tornato ora per giustificare l'altra metà di tournée abbiamo pensato di dare in pasto ai fans un'anteprima del nuovo disco che uscirà a dicembre. Ed è molto bello che sia Sorridimi, però, dopo dei problemi di salute. Mi sembrava anche di buon auspicio. Sto male. Ed è una canzone che ti apre il cuore, perché è una canzone veramente una ballata, non so, tecnicamente forse. Sì, una semi-ballata, si può dire, un po' dalle atmosfere un po' 60s, beatlesiane. Perché noi siamo degli appassionati, infatti ci piace sempre moltissimo il momento in cui noi invitiamo l'ospite musicale, si può fare, ce l'abbiamo quando è uno come dal Omar. Vivo qui con io, noi. Io sono molto felice e onorato. Senti, ma problemi di salute, e che problemi di salute, ma però sei in un momento molto produttivo, un disco l'anno scorso, adesso sì, un tour, anzi adesso diamo anche le date, perché devo sarai... dire che ci vado a fare a Londra è nato proprio in un momento in cui mi avevano avvisato di un brutto peggioramento della mia situazione cardiaca. Contemporaneamente, come spesso la vita fa con me, ma credo anche un po' con tutti, che gioca con noi, va presa come una commedia, infatti mi dicono: il manager di Noel Gallagher ti aspetta a Londra sabato per parlare delle nuove canzoni dopo otto anni che non facevo disco, sì. Con la moglie che stava per partorire la mia nuova genita, Emma, che sta girando qua intorno. Quindi io mi sono detto, alla mia età, col cuore, che caso ci vado a fare a Londra? Ma certo che ci vai, altro che, bellissimo. Senti, che cosa, vabbè, Sorridimi, l'abbiamo sentito, che cosa ami raccontare adesso in questa fase della tua vita con le tue canzoni? I testi sono comunque importanti per te? Sono molto importanti, anche quando sono testi, diciamo, un po' leggeri. Tu sai che John Lennon, per citare un grandissimo, ha sofferto tutta la vita che Help dei Beatles per lui era un grido di dolore, di aiuto. Sì, invece è stata vissuta. Ecco, Sorridimi io volontariamente l'ho fatta molto allegra, proprio perché credo siano tempi in cui ci sia bisogno di sorriderci uno con l'altro anche, no? E quindi noi ovviamente invece la prenderemo come un inno rivoluzionario. Lo è, esatto. E siamo tutti, vuole dire, siamo comunque tutti sullo stesso barcone, più o meno. Beh, direi che in questi giorni di arrivi e di immigrati, siamo partito così subito col barcone. Visto che siamo, è più bravo di noi. Si può fare. È più bravo di noi. Omar Petrini, che è arrivato, diciamolo, con la bottiglia di vino, possiamo dire immancabile, perché ci deve essere sempre. Ormai il posto della carta d'identità, quando entro a Radio 24 mi chiedono: c'è la bottiglia? Sei e tu. Io gli ho chiesto subito, facendo il solito: ma è il tuo vino? No, perché io il vino lo faccio solo per me, perché tu ami mettere le mani nella terra, hai una tenuta. Già il fatto che tu citi Pavese mi emoziona e mi rende felice. Sì, io amo mettere le mani nella terra. Negli anni d'oro con il mio babbo abbiamo preso un fazzoletto di terra in Toscana che si chiama La Zuccherina, dove produciamo un vino sincero. Quindi al riparo da qualsiasi avvisiamo gli ascoltatori vino. Che non è uno spot questo, no, perché non è in commercio, quindi... è un buon olio, tant'è che il mio padrino Luigi Veronelli, Gino, voleva che io lo mettessi in commercio, perché riteneva che il nostro olio fosse eccezionale. La prossima volta vogliamo la bottiglia d'olio, scusami, e quindi io a Natale agli amici, visto che si vendemmia a novembre l'olio e a settembre, oggi anche ad agosto col caldo che ha fatto, l'uva, a Natale porto in omaggio agli amici e ai collaboratori, invece che un regaluccio venale, preferisco beh, il vino regalo, e l'olio. Quindi poi quest'anno l'olio ce n'è lista, poco. Siete già in lista. È vero, ma quest'anno di olio ce n'è quest'anno poco, quindi vale ancora poco, di più. Ma è molto molto buono, così come l'uva, se tiene, ha una grande gradazione data ovviamente dal tanto sole che c'è stato. Eh sì. E il tuo vino è un vino, cos'è, un vino rosso? È un vino rosso di Toscana, è sangiovese, lì la terra chiama proprio Sangiovese, ma papà ha voluto mettere un filare di Merlot per giocare, per divertirci. Quindi la cosa... viene fuori un mezzo Chianti, perché sì, stiamo io cercando... non voglio far finta di conoscere i vini. No, perché... il Chianti è sangiovese grosso come base e con qualche canaiolo, sì. Quindi hanno un po' di canaiolo e una specie di Chianti, ma siamo fuori dalla zona del Gallo Nero. E invece quello che ci hai portato stasera è? Questo invece è un vino del Piemonte, di Rocchetta, sì. Tanaro, E il nome già è un nome, un programma, non voglio fare messaggi promozionali, però già dicendo Rocchetta insomma si sa che è una zona vocata, che è un po' un mio paese d'adozione, perché i rocchettesi, io sono rocchettaro, da allora è stato amore a prima vista, e firmo una poesia su una bottiglia loro, la poesia si chiama Montebruna perché è questa collina da cui contemplavo le vigne, e ora ce n'è una di Paolo Conte, quindi sono in grandissima compagnia. Beh sì. E affidano ogni 4 anni, mi ha preceduto l'amico compianto Giorgio Faletti, che mi fa piacere ricordare qua, ogni 4 anni insomma un artista amante del vino dedica una poesia a questa, ed è una bella iniziativa. Ma anche perché sei un poeta, cioè, hai raccontato prima di questo festival, sì. Dove in realtà vengono apposte delle canzoni come se fossero delle poesie su si fanno proprio delle poesie, talvolta sconfinano in testi che ritengono poetici, ancora più preciso, quindi ecco, indegnamente ci sono anch'io, no degnissimamente. Ci raccontate che in realtà hanno messo il testo della follia, sì. E insieme anche il testo Emozioni di Mogol. La follia è un'amica che mi tiene compagnia, sai. Perfetto. La follia è un'amica che mi tiene compagnia, è un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia, è il vestito della festa, è una voce nella testa, e così via. Senti, ma tornassi indietro rifaresti il musicista o faresti il contadino direttamente questa volta? Ecco, questa è una bella domanda. O faresti il cardiochirurgo, pensavo stessi chiedendo. Cardiochirurgo, ho sposato la figlia del cardiochirurgo. Beh, quindi, ma questa vedi? Allora è la notizia. Sì. E la maledizione è che sei sotto i ferri una volta all'anno? E la maledizione è che devo rigare dritto, perché questo ci mette un attimo. Perfetto. A sbagliare la cuna. Scusa, ho interrotto, però in realtà invece quello che gli hai chiesto, Alessio. Del contadino, sì. Esatto. Allora, devo confidarti che più sale l'età, i capelli bianchi cominciano ad ornare il mio volto. Pochi però, pochi, siamo in radio, non si vedono. Ecco, più aumentano le quote del contadino, adesso saremo a 70-30, 70 di musicista e 30 di contadino, ma aumentano con l'età, quindi il mio sogno rimane quello di potermi permettere il lusso di fare il contadino. Bello, meraviglioso, non so se può essere un futuro per molti che ci stanno ascoltando veramente, o perché poi sembra sempre una cosa un po' fricchettona questa del ritorno alla campagna. Beh, oggi secondo me è anche un po' un'urgenza, diventerà un'esigenza in futuro, credo. Sempre di più secondo te? Secondo me sempre di più, quello è il motivo insomma che mi ha spinto anche a fare un videoclip, insomma girando per gli orti, raccontando una Milano, no, nel videoclip di Sorridimi, una Milano, sì, diversa da quella dei grattacieli, del nuovo skyline bellissimo. Degli orti urbani. Degli orti, esatto, urbani, insomma dei campi di grano, c'è bisogno di tornare ognuno di noi un pochino alla terra. Consideriamolo un piano B per ora, ma chi mi ascolta mi dia retta. Se poi ci porti le bottiglie di vino, ancora di più. Diventa un piano A. Frutti, diventa un piano A. Ci fermiamo per la borsa, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24. Abbiamo un po' trascurato gli ascoltatori, li sentiremo, così come risentiremo Pedrini parlare e cantare con noi. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Che ci vado a fare a Londra? Io sto bene qui con me, con gli amici e la mia donna. Voglia di partire non ce n'è. Ci vado a fare a Londra, Omar Pedrini, eccolo qua di nuovo in studio con noi, siamo molto felici che tu sia qua. Ci stavi raccontando, Omar, cioè bisogna stare, con te bisogna stare attenti, cioè tu vai in ospedale, ti fai curare e ti innamori della figlia del chirurgo e la sposi. No, questa caspita, è una pazzia. Sì, è successo ma, così. Ma la figlia del chirurgo, tra l'altro, secondo me è un bellissimo titolo per una ballata, direi. La figlia del dottore, direi che proprio sì. Mi hai dato una buona idea, così mi è stato, ma lui ha un genero che conosce veramente da dentro. Bene. Quindi è l'unico che sa come sono fatto dentro adesso, quindi non posso mentirgli. Ma sei sempre stato così rapace nelle situazioni o... No, qua non c'entra veramente, però è scattato qualcosa e in più mi sono messo una piccola garanzia per gli anni azzurri. Cioè, direi che possiamo chiudere dicendo che avere problemi cardiovascolari conviene, nel senso che hai una iperproduzione, hai una splendida compagna, hai una splendida figlia, direi che assolutamente è una esatto, cosa... c'è un piccolo prezzo da pagare. Quindi, però i problemi cardiovascolari sono una buona cosa, e così rispondiamo anche a Giorgio, ecco. Carbone, che dice che i problemi cardiovascolari ce l'hanno soprattutto le coppie omosessuali. Don in Danimarca. Giorgio, non so se Omar tu hai sentito questa cosa qua, sì, affermazioni sì, sì. Abbastanza farneticanti. Vi ascolto spesso e te le facciamo sentire, va, sentiamole. Gli studi statistici, e io cito nel mio testo lo studio statistico più ampio che esista, cioè su 6 milioni e mezzo di persone danesi del Regno di Danimarca, e lì si evince che le coppie eterosessuali sono esposte a minori rischi cardiovascolari, respiratori, suicidio, tentato suicidio e AIDS, infinitamente minori alle coppie dello stesso sesso conviventi o sposate nel Regno di Danimarca. Insomma, questo è Don Giorgio. Io non so, Omar, se tu sei riuscito a mettere insieme abbastanza letteratura scientifica partendo dal tuo caso per avere una tesi su questa questione, sì. Però non credo, perché insomma è veramente pazzesco. Porco cane. Io, se posso rispondere con un titolo di Omar, direi La Follia, e possiamo andare avanti. L'abbiamo anche già cantata. L'abbiamo. Allora, ovviamente l'ha cantata Delirium. Omar, perché io non... Ci vorrebbe un pezzo di Delirium anche. Non forse sarebbe... sì, forse sì. Fatemi andare agli ascoltatori, va, che non l'abbiamo ancora sentiti. Andrea dalla provincia di Torino, buonasera, benvenuto. Eccoci qua, buonasera. Eccolo. Buonasera. Sono un vostro affezionato e assiduo ascoltatore. Continui così, Andrea, fantastico. Senta, io volevo solo dire questo. Sì. Parto con una domanda un po' polemica. Sì. Ma di che cosa ci stupiamo? Mi riferisco ai funerali del boss lì, Casamonica. Sì. Di che cosa ci stupiamo quando abbiamo uno Stato nello Stato che è la mafia? E lo sanno chi sta in alto, quelli che hanno il potere. Lo sanno, le sanno queste cose. Allora, perché adesso ci fanno tutta la storia, tutta la manfrina? No, sì, adesso facciamo il gruppo interforze, così c'è lo scambio di informazioni. Sono altri soldi spesi, sono soldi nostri, delle nostre tasse, che dobbiamo spendere per mantenere un ulteriore gruppo interforze, per un ulteriore scambio di informazione che tanto non serve a niente, perché questa gente... No, è vero che questa cosa dell'interforze è un po' una toppa messa lì, perché Gabrielli all'inizio ha detto è stata una svista, oggi ha detto comunicazione che non ha funzionato dal basso verso l'alto, e quindi adesso è uscita fuori questa cosa dell'interforze in attesa che o Alfano dica che qualcuno ha sbagliato qualche cosa, oppure che ci dica che andava tutto bene così. Però va anche detto che forse non stupirsi non sarebbe giusto, nel senso che è inutile dirci di che cosa ci stupiamo, forse, perché bisogna continuare a stupirsi. Il fatto che sia un dato di fatto non è sufficiente nel momento che avviene qualcosa di eclatante, e uno un pochino si stupisce, no? E c'è anche Omar, che ha una teoria mezza un po' complottista. No, e tu hai una tua opinione. No, io non sono assolutamente stupito da questa cosa, anche perché comunque insomma è una manifestazione così luttuosa con i costumi che appartengono a queste genti, e non mi ha meravigliato. La cosa grave sicuramente è che un elicottero di questi tempi si possa permettere di girare su Roma senza permesso. Sono molto quello d'accordo. Lo trovo un buco nella sicurezza che mi spaventa molto. E dicevi anche che ti preoccupa di più l'inchiesta mafia però capitale, questa manifestazione insomma alla fine, no? E questi sono comunque cattolici, sono andati in chiesa. Io non ricordo Totò Riina girare in Rolls Royce o coi cavalli, cioè il mafioso meraviglioso nel suo status nei film, esce e fa manifestazioni così popolari, così sopra le righe, se avesse qualcosa da nascondere. Questi, insomma, sì, probabilmente hanno un'estrazione di un certo tipo, malavitosa forse anche, ma non credo sia quello il problema. Anzi, temo che con tutto questo polverone che si è alzato si nascondano altre inchieste, altri problemi che ci sono state soprattutto a Roma ma anche in Italia in questo periodo. Vedo che Omar sta scaldando i polpastrelli, siccome ecco, tra poco sentiremo qualcos'altro. Andrea da Torino, non so se non c'è più, volevo chiedergli se, come commentava la risposta di Omar. Alessandro da Siena, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Sentite? Sì, forte e chiaro, forte e chiaro. Allora, Siena. Io volevo anch'io parlare di questa storia del funerale, perché sì? Sinceramente mi fa sorridere. Mi fa sorridere perché è tipico nostro italiano, no? Cioè, oggi è venuta fuori la notizia che ci sono oltre 40 appartamenti del comune di Roma o dei ministeri dove risiedono componenti di questa famiglia. Ma di cosa parliamo? Ma di cosa parla Gabrielli, che c'è ancora la gente nelle baracche che lui ha gestito il terremoto dell'Aquila? Questa è gente che gli va dato una stretta di mano, nemmeno la pensione, perché non se la sono meritata. Non hanno fatto niente di costruttivo per il nostro paese. Ma di cosa parliamo? Parliamo di una parrocchia che sapeva benissimo a chi faceva il funerale e che tipo di messa ha fatto. Qui ci stanno prendendo tutti abilmente per il culo. Questa è veramente una presa per il culo globale. E io lavoro all'estero, in molti paesi del mondo, per una grande industria italiana, una grande italiana, e veramente siamo lo zimbello del mondo. Siamo lo zimbello del mondo. Si passa da presidenti del consiglio che hanno le puttane a giro per casa, ai mafiosi che fanno i funerali con i cavalli. Cioè, veramente, bisogna soltanto vergognarsi. Io non sono fiero di essere italiano, ma a certe volte, quando parlo con altri colleghi di altri paesi, mi vergogno. Alessandro, sta venendo fuori, non so se se ne accorge, una specie di instant song anche qua, perché Omar Pedrini sta musicando la sua telefonata. Sì, esatto. Sì, poi chiama da Siena, mi trova d'accordo, chiama da Siena, io sono a Cetona a fare il lino. Perfetto, sa di cosa tutto parla. Torna. Cioè, il messaggio è questo, parliamo d'altro, no? Il messaggio di Omar, parliamo del vino che lui fa a Siena, no? Alessandro, lei... Sì. Parliamo del Made in Italy e va tutto bene, però per favore, veramente, guardi, ho 53 anni, non ci stufiamo davanti a questa cosa, perché a me la gente... Sì, io però non ho capito una cosa, Alessandro, di quello che lei dice, sì. Non ci stupiamo, è tutto quello che lei ha detto, ma la questione dei funerali è un problema o no? Oppure, vista l'elenco lungo problema. Dei problemi che lei ha fatto, allora chi se ne frega dei funerali? Problema. Ah. È un grossissimo problema, ma io aspettavo anche l'intervento della Chiesa, che sono i primi a intervenire, sì. Quando guardano, quando sentono qualcosa, e a questo prete non gli dicono niente, tranquilli. Però dobbiamo ricordarci che non è condannato il defunto Casamonica, non è condannato, quindi diventa un po' difficile per qualcuno dire: io non ti do il permesso di fare il funerale nella mia chiesa. Perché non è che si può dei sospetti decidere di non fare un matrimonio, un funerale. Sì, ma io sono perfettamente d'accordo, però ci sono anche preti che potrebbero dire: guardate, vista l'alone che gira intorno a certi cognomi, per favore, facciamo una cosa sobria. Però l'alone non è una giustificazione, l'alone. No, ma invece io sono d'accordo con l'ascoltatore, l'ha detto anche Gratteri. Questo funerale, il PM Gratteri, chiamato dal governo a redigere le nuove norme in materia di antimafia, questo magistrato qua dice: la vicenda del funerale di Casamonica ci fa perdere anni di credibilità nella lotta alla mafia. I funerali delle persone in odore di mafia si fanno all'alba, la mattina, e i siciliani lo sanno e nessuno li vede. Questo è quello che dice Gratteri. Che è l'uomo chiamato dal governo, che adesso non sta facendo assolutamente niente, Alfano, abbiamo sentito prima Scalfarotto, vediamo, brighiamo, eccetera, però quest'uomo qua dice questo. Quindi, se stiamo a Gratteri, quello che è successo è gravissimo. C'erano gli strumenti per non farlo accadere. Grazie Alessandro, buona serata. Non so se Omar nel frattempo sta pensando a farci sentire qualcos'altro. No, stavo pensando che anch'io non sono stupito minimamente da questa cosa. Se non sbaglio. Ma ormai noi italiani siamo talmente abituati anche a tante cose che abbiamo visto che poi esatto. A un certo punto purtroppo non ci abbiamo più. Fatto però non va il bene. No, e soprattutto la mancanza di stupore non è un buon strumento per contrastare determinate cose che accadono. Siamo un po' assuefatti. No, nel senso che è utile dirlo quando molti si stupiscono, qualcuno dice io non mi sono stupito. Però comunque la questione di per sé è una questione, quindi capire come reagire mi sembra importante. Moreno dalla provincia di Bologna, buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo fare due interventi. La prima cosa volevo dire che mi dispiace per Gabardini, ma sarà bravo come attore, ma non altrettanto. Prego, non si emozioni. Nell'esprimere le sue opinioni, perché quando mi dici che i Casamonica non sono condannati. Quando li conoscono tutti da 40 anni, sanno chi sono, cosa fanno a Roma, cioè, mi sembra un'affermazione un po' ambigua. In che senso? Al di là di quello, no, però, ma in che senso? Nel senso che sono condannati? Forse ho sbagliato e le chiedo scusa. Sono condannati? Non credo che ci sia una condanna nei confronti del signore. Quante condanne ha avuto e ha scontato Casamonica? Direi zero. No, ne ha una per truffa. Ha avuto una condanna per truffa. Lei guardi un po' chi si informi chi sono i Casamonica. No, ma infatti no, che siamo condannato o meno. Ha assolutamente ragione. È sbagliatissimo questo qui. Sì, però lei si informi se mi dà una condanna, almeno la diciamo e così correggo l'errore che ho fatto e lo faccio molto volentieri. Vabbè, ma se non è condannato adesso, ha avuto già delle condanne, l'avrà già scontate. Ma parliamo dei Casamonica, parliamo della famiglia, parliamo di quello che fanno, è questo il concetto. Devi scendere nel particolare dicendo ma adesso era libero, aveva scontato tutto. No, mi scusi, l'unico concetto è se c'è una condanna pendente, se no non c'è nessun concetto, proprio non si può neanche parlarne. Non è che siccome lei pensa di sapere che forse hanno fatto delle cose brutte gli si può vietare qualche cosa, perché la legge purtroppo è così, o c'è una condanna o non c'è, la condanna non c'è. Ma vabbè, ma io guardo anche chi fa queste cose, come le fa e che segnale può dare. Però la legge non può. La legge. Tutto, siamo tutti uguali, eccetera. Non è così la storia. Come non è così? È sicuramente è così, nel senso che se non c'è una condanna, non è che possiamo dare il permesso per fare un funerale a seconda che secondo lei pensa che sia giusto o sbagliato. È solo la legge che può deciderlo. Dare, ma sono io stato che devo stabilire come va fatto quel funerale. Esatto. Messaggio da quel funerale fatto in un certo modo, eccetera. Questo è il concetto che deve dare uno Stato, perché se uno dice no, lui lo poteva fare perché non è condannato, eccetera, allora il messaggio non è giusto, non bisogna far passare questi messaggi. Purtroppo io posso essere d'accordo con lei, ma in assenza di condanna diventa difficile per uno Stato vietare a qualcuno di fare un funerale. Era questo che sostenevo. Approfondiamo la questione grazie all'ascoltatore con un'intervista ad un rom italiano, musicista, docente universitario, che dice non c'è niente da stupirsi perché quello che avete visto è un rito sinti come se ne fanno tanti. È con noi Alexian Santino Spinelli. Buongiorno, buonasera. Buonasera a tutti, io mi trovo in questo momento a Monserrato, in provincia di Cagliari, quindi alla Sardegna, un saluto da qui. E l'autore anche di questa musica che stiamo sentendo? Perché lei è prima di tutto un musicista, però è anche laureato due volte ed è docente universitario di lingue e cultura romani, credo all'Università di Chieti, così? Sì. Ecco, lei dice... Ha detto bene? Sì. Tutto questo clamore è ingiustificato, secondo lei? Ma attenzione, bisogna distinguere, io faccio un distinguo, bisogna farlo, cioè tutti dovrebbero farlo, in maniera netta e chiara, tra ciò che sono gli elementi culturali di un popolo, dalla cronaca e dai fatti giudiziari, che sono ben altro piano. Però in questo caso le due cose un po' si intrecciano, non è che c'è niente da fare. Questa persona è stata indagata e questa persona era libera o era in galera quando è morta? Era libero. E allora, se non ha fatto nessun reato, Non capisco. Però scusi, un funerale così sfarzoso, quando muore un sinti, un poveraccio, si fa lo stesso tipo di funerale? È un rom, allora questo è un rito rom, non sinto, questo, anche questo bisogna spiegare. Allora, i rom italiani, questo è specificamente i rom italiani di antico insediamento. Quando cioè, muore un rom poveraccio, qualunque, si fa un funerale così sfarzoso con i cavalli o no? Nonna. Certo, mia nonna e mio nonno, che non erano in nessuna lista diciamo di proscritti, erano persone semplicissime, hanno avuto lo stesso identico funerale. Con l'elicottero e i petali? No, no, le spiego come. Senza con elicottero o con l'elicottero? Terra, con, no, senza elicottero, perché con il carro funebre trainato dai cavalli e con la banda, come tutti i rom che anche muoiono. Anche con la musica del padrino? No, ma la musica poi lì di solito sono le marce funebri che si eseguono secondo ciò che la banda assoldata, sì. Gli italiani non sono mai rom che suonano quello che sanno suonare, evidentemente lì quello hanno saputo suonare, quello hanno suonato, cioè avevano in repertorio la musica del padrino anziché un'altra tarantella, una musica qualunque, hanno suonato quella. Ma secondo me nessuno ha dato nulla, nessuno hanno suonato, secondo me hanno suonato solo quel brano, hanno suonato tante altre musiche, no, no, sì. Poi ognuno ha voluto caricare, hanno voluto caricare un significato che probabilmente i parenti hanno affermato che era una precisa richiesta del defunto, quindi non era repertorio assolutamente. Mia nonna, le faccio l'esempio di mia nonna e di mio nonno, sì. Che ripeto erano persone semplicissime, e onorare le persone, la memoria dei propri cari non è rivolta all'esterno per noi rom, ma all'interno della comunità. Io però continuo a non capire perché scegliere la musica del padrino. Sentiamo come la giustificano i parenti, ce l'abbiamo la voce, sentiamolo un attimo. Allora, noi abbiamo scelto il padrino perché è stata una richiesta della morte di zio Vittorio che ci ha chiesto questa canzone. È stata quindi una richiesta di Vittorio, sì, Casa Monica, ma cosa avrà voluto significare? Cioè è una musica che si usa nei funerali rom, il padrino, normalmente? Ma nei funerali rom si usa di tutto. Di tutta musica, dalla musica sudamericana alle marce funebri alle processioni, quelle che si fa durante il Venerdì Santo, cioè dipende dalla banda che uno assolda e che sa suonare in quell'attimo, no? I rom solitamente neanche fanno richieste particolari, ma quindi secondo lei non, questo funerale non ha niente a che vedere con la grandeur, la grandezza della famiglia Casamonica, grandezza anche in senso criminale, anche lì, 115 arrestati in 5 anni, anche lì non tutti i Casamonica sono dei delinquenti. Ci sono Sandro Casamonica, che è stato campione d'Europa di pugilato, ha rappresentato l'Italia a Seul nelle Olimpiadi di Seul, andatelo a vedere. 115 arrestati in 5 anni a Roma, 115 arrestati, Spinelli, 115 in 5 anni. Certo, su una famiglia di 7.000 persone però. Non sono pochissimi però. Lei mi ha detto c'è uno che ha fatto il pugile, io dico ci sono 115 arrestati. Ripeto, io non ho mai difeso nessun criminale che fosse italiano, inglese, francese o rom. È chiaro che chi sbaglia deve pagare, però io credo che sia ingiusto e disumano fare di tutta l'erba un fascio e per l'errore dei singoli devono pagare tante famiglie, soprattutto. Ma scusi, ma pagare cosa? In che senso pagare per l'errore dei singoli tante famiglie? Si trattava di non autorizzare il volo di un elicottero, di non autorizzare un corteo di chilometri. Allora lì gli aspetti giudiziari, come questo, un elicottero non può sorvolare, lo sappiamo, non può sorvolare a pelo d'erba, diciamo, e lì c'è un errore, è evidente, no? E non è che ci vuole l'arte, ma questo non c'ha nulla a che vedere con le tradizioni. Io difendo le tradizioni di un però popolo. Mi scusi, ma quindi cioè, lei sta dicendo che in realtà questo funerale non aveva assolutamente nulla di dimostrativo per la città di Roma, per far vedere chi siamo noi, Casa Monica, era semplicemente un normale funerale? È questo che sta dicendo? Questo dovete chiederlo ai familiari. A me, io vi posso parlare come esperto di cultura rom, io vi dico che come, ripeto, mia nonna, che non aveva nulla a che vedere, gli è stato attribuita e tributato un onore molto simile, perché nella nostra tradizione i fiori si buttano per terra, perché i fiori rappresentano la purificazione, i cavalli rappresentano... Ma aveva anche i manifesti sua nonna con scritto, scusi, aveva anche i manifesti con scritto hai conquistato Roma, conquisterà il paradiso? No, ma lì, hai conquistato Roma è un messaggio ben preciso, cosa vuol dire, scusi? Ma secondo me... voleva dire la famiglia, ripeto, non posso parlare in nome della famiglia, però secondo me, secondo la nuova generazione, quella voleva dire sei stato stimato da tutti a Roma e quindi ecco che comunque stimato, non so se è la parola data. Stimato, questo era un clan, scusi, il clan dei Casa Monica. Roma, ripeto, sono quelli che fanno le estorsioni, sono quelli che fanno le estorsioni e spacciano la droga. Io non lo so se se questo possa portare della stima. Questo io lo dice lei. Io non voglio difendere nessuno, io voglio difendere paura, semmai paura dei Casa Monica. Popolo, sì. Chiedo scusa, il diritto da parte di un popolo di ma avere questo lo capisco, questo... rite funebri in maniera tradizionale. Il punto, Spinelli, però è se questo. In quel funerale lì, resto... oltre al rito, c'era anche una forma di messaggio alla città, di intimidazione, esatto, di far vedere che siamo quelli che contano, che hanno il potere. Tra l'altro le voglio chiedere anche questo, come fa una famiglia rom come quella ad arricchirsi fino a quel punto, perché si è detto i cavalli, nella tradizione dei Casamoni che sono i cavalli, ma come dice Travaglio... i cavalli, no, attenzione, no, non mi metta in bocca ciò che non ho detto. Io non ho detto che nella tradizione dei Casamoni, nella tradizione dei Rom, i cavalli in tutti i Rom, io sono Spinelli, anche i Di Rocco, i Morelli, tutti i cavalli, noi ce l'abbiamo tutti i cavalli, che sono un simbolo nella cosmologia culturale romani, rappresenta la famiglia, la libertà e il viaggio. Questo è il significato. La musica è sempre presente, dalla vita alla morte, esattamente come per i matrimoni, dove c'è molta musica, c'è molto sfarzo e dove si onorano in quel modo i partecipanti, gli invitati. Allo stesso modo la musica durante il rito funebre serve a onorare i partecipanti, non è un messaggio esterno, è un messaggio all'interno. Questi sono i valori. Poi se uno lo vuole caricare di altro, si faccia, però che non si tocchi la tradizione, perché non vorrei che adesso che muore un Rom, il prossimo Rom che muore viene indicato come mafioso, perché questo sarebbe ingiusto e disumano. Perché un Rom ha diritto di avere, secondo la propria tradizione, il proprio rito funebre. Ma non mi sembra questo, ma è chiarissimo. Questo però deve non essere mi... chiaro. Ma non mi sembra questo il caso. Al prossimo morto Rom, che non si possa, cioè, i Rom non devono più morire, oppure non devono più seguire la tradizione, perché sennò saranno condannati come mafiosi. Questo è ingiusto, credo. Okay? No, ma non i Rom, quindi, non i Rom. Distinguere ciò che è culturale e quelli che sono, diciamo, i fatti di cronaca e giudiziari, che lì è la magistratura che deve provvedere. Chi ha sbagliato, chi sbaglia, deve pagare. Io però scusi, adesso le faccio quest'altra domanda qua. Prego, qualora, perché Vittorio Casamonica ha avuto solo una condanna per una truffa, per una truffa lieve. Quindi, ma scusate, ma Vittorio Casamonica... Quindi da quel punto di vista è inattaccabile. Prima. Ma lui, in quanto, diciamo, uno dei capi di questo clan Casamonica, che inchieste, arresti e atti giudiziari lo dimostrano, trattava lo spaccio di droga, le truffe, acquistavano i debiti andando a recuperare con le minacce e con la violenza, in questo caso, qualora questo fosse dimostrato, è giusto lo stesso fare un funerale con tutti questi riti e questo sfarzo, o bisognava fare una cosa in sordina per rispetto delle vittime, per esempio, di questa gente qua? Questa è la domanda. Certamente, allora io credo una cosa, che tante cose si potevano evitare, certamente, fermo restando il rito funebre tradizionale. Cioè quello non si tocca in qualunque caso, l'eccesso certamente è sempre da condannare, sicuramente. Però io e qual è l'eccesso in questo caso, Roma, Spinelli? Ripeto, come il Rom, io difendo la possibilità di un popolo, farei per qualsiasi altro popolo che ha una tradizione funebre particolare, quella va rispettata. Ma non stiamo discutendo di questo, scusi, stiamo discutendo di questo specifico funerale. Chiedo scusa, io sono un artista intellettuale, posso rispondere per la parte culturale, non posso rispondere per la parte giudiziaria o la cronaca, che non compete a me. No, ma non le sto chiedendo la parte giudiziaria, le sto chiedendo se secondo lei il funerale dei Casamoni a Roma è stato un atto dimostrativo per dimostrare dell'altro, o un semplicissimo funerale Rom? Per me da Rom lo vedo come un semplicissimo forse eccessivo. Un po' eccessivo. Roma. Per esempio, qual è l'eccezione? Per esempio, l'eccesso, quale sarebbe un eccesso? In l'eccesso, questo per esempio, l'elicottero, bastava buttare i pietre come hanno fatto per mia nonna e per mio nonno, che erano persone molto umili. Effetti, per suo nonno e per sua nonna si sono alzati meno polveroni. Per terra, durante il passaggio del carro funebre, si è buttato per terra i fiori per, come dire, per purificare l'anima della persona. Anche la musica del Padrino è un eccesso. La banda era una piccola banda fatta di 10 persone, cioè un piccolo gruppo musicale. Parliamo di sua nonna. Non era sparso. Di mia nonna e di mio nonno. Sono morti 15 anni fa e noi abbiamo fatto questo. Io, quando morirò, spero di avere lo stesso tributo funerario. Glielo auguriamo. Va bene. Grazie, dobbiamo chiudere. Grazie Spinelli, buona serata. Ci fermiamo per una brevissima pausa. Vai. Lei che è un radical chic, no? Io sì, grazie. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, quando sono le 20 e un minuto, siamo di nuovo in studio con Omar Pedrini, che insomma, ci stava sulla pausa un po' spiegando anche da questo punto di vista qua il tuo punto di vista, Omar, perché anche da, non dico da musicista, perché abbiamo finito di parlare con Spinelli che è un musicista, però sul fatto della pietà umana, no? Avevi un tuo punto di vista. Sì, credo che il concetto di pietas o misericordia comunque faccia parte del messaggio del Cristo, della Chiesa, dei cattolici, e quindi penso, non me ne intendo né di diritto canonico, tantomeno di liturgie ecclesiastiche, però sia anche un dovere per un prete officiare un funerale. Sì, probabilmente anche del peggiore degli assassini. È così, mi meraviglio di essere io a difendere, a dover dire questo, però no, credo. Infatti in questo si aggiunge la polemica per il fatto del funerale a Welby, che invece in quella non stessa parrocchia fatto. Venne e questo è gravissimo, ma non è, però in realtà di nuovo però so parlando che il suicidio... delle regole in realtà la Chiesa, che siccome si può farsi le proprie regole come vuole, ha fermamente, ecco. Siccome di solito ai suicidi cercano di fare lo stesso il funerale dicendo che non era pienamente nelle sue facoltà nel momento in cui decideva, esatto. Questo, siccome Welby ha lasciato una lettera scritta dicendo io scelgo, decido questa cosa, la Chiesa suicida, ha detto per la Chiesa è un suicida. E poi lo sappiamo tutti che è una questione politica in quel momento. Ok, lo sappiamo. Quindi. Però a questo pretino, diciamo, di quartiere che ha officiato il funerale, ha celebrato. Io sono solidale con questo, credo non avesse scelta. No, non ho sentito la predica, quindi riservo di ascoltarla. Ruota, è l'ultima ruota del carro, sicuramente. Lui a un certo punto nell'intervista che gli ha fatto la giornalista di Sky TG24 ha detto sì, va bene, però per le scomuniche a questo tipo di gente dovete andare più in alto di me, non spetta a lui scomunicare. Se poi il Papa scomunica i mafiosi, lo scomunica a Casa Monica, allora non gli faccio il funerale. Va bene, andiamo ancora con qualche ascoltatore. Tony da Verona, buonasera, prego. Buonasera, ciao, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Volevo salutare Omar, ci siamo visti a Nogara al tuo concerto. Oh, che bello, ciao Tony. Ciao, ciao. Ti ricordi che ti ho venduto qualche CD? Sì, sei riuscito a vendere i CD? Ah, vabbè, straordinario. Sì, erano ricchissimi i CD di Omar. Scusami, tu vai al concerto di Omar Pedrini e vendi i tuoi CD a lui? No, no, questo no, ragazzo aveva una banca. Vendo dischi in vinile. Ah, perfetto. Allora, io amo il vinile. Un angolino suo. Sono maniaco del vinile. Sì, ti piace. Sono piombato subito da lui e ho comprato i Grateful Dead. Ottimo, dici tutto. Allora, volevo solo intervenire sul sacerdote che ha parlato a Comunione Liberazione. Io penso che un Don Giorgio Carbone, sì, Don Giorgio, sì, esatto, un prete deve parlare solamente d'amore, e se due persone che si amano, anche se hanno il minimo rischio di essere malate o avere qualche problema, appunto decidono di stare insieme, di certo non è lui che deve dirlo. Ma soprattutto se cita uno studio, non lo so, adesso abbiamo sentito prima Scalfarotto che ha detto questo stesso studio, io l'ho letto, dice il contrario, non stento a credere, perché non esiste uno studio di quel tipo lì. Dai. Ma non è neanche interessante dire dice il contrario, perché io non penso che la lotta sia se muoiono prima le coppie eterosessuali o le coppie omosessuali, certo. Non credo proprio che ci sia una questione, non è che ci sono più malattie in una delle due tipi di coppie. Io sono eterosessuale, ma dico viva l'amore di qualsiasi sesso, ok? Ottimo, grazie mille. Buona serata. Grazie, buona serata. A questo punto parte per forza una canzone di Omar, perché viva l'amore, viva l'amore. Volevo fare All you need is love. Ta-ta-ra-ra. All you need is love. Love is all you need. Vogliamo Omar Pedrini sempre con noi d'ora in poi. Anzi, prenderà il mio posto da settembre. Antonio da Latina, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Dunque, io questa questione la vedo sotto un'altra ottica, e sì, cioè la disparità di trattamento fra il cittadino comune e il cittadino, diciamo, particolare. Via, in Casa Monica possono essere considerati cittadini un po' particolari per le loro attività economiche che hanno nella, nella capitale. C'è il prefetto che, quando si tratta di cittadini pacifici, manifestanti, sì, ma tranquilli, che non stanno dando fastidio a nessuno, stanno seduti sulla strada per non far insediare altri migranti, poi non so discutere se è giusto o non è giusto far insediare nuovi migranti, comunque manifestano un disagio. Sì. Abbiamo visto tutti quello che ha fatto la polizia, i Celerini hanno trascinato le donne sull'asfalto, proprio le trascinavano dalle braccia, strusciandole sull'asfalto. E adesso mi immagino la scena, la polizia che deve disperdere o quantomeno intervenire durante il funerale dei Casa Monica. Che sarebbe successa? Una guerra. La polizia, secondo me, oggi fa ridere, cioè non ce l'ha la forza per imporre le proprie regole, le proprie leggi a determinate persone. Quindi io non vedo proprio come il prefetto, che secondo me è inutile, sta lì soltanto per sedare chi è già sedato, cioè la brava gente. Sta lì per questa non questo. È male, sedare chi è già sedato. Sì, infatti, però là dove ci sarebbe da intervenire, magari con un gesto anche, diciamo, imponente, ti saluto, quello che ha detto lunedì vado a chiedere informazioni in questura, ma lui in cui lunedì ci vado io a chiedere informazioni in questura, non te, dovresti sapere qualche giorno prima. No, ma poi questo. Oggi devo dire che Gabriele è incredibile quando dice avevamo avuto informazioni, c'erano le informazioni su quello che stava succedendo a Roma, ma non sono arrivate in alto, ai vertici della prefettura. È allora, grottesco, dai, ridiamoci sopra tutti qua, è grottesco. No, perché se c'è qualche responsabilità, allora devi trarre le conseguenze di quello che è accaduto, oppure devi dire è andata bene così, il funerale doveva essere svolto così e non è successo niente, allora è tutto coerente, altrimenti no. Esatto. È un'altra chiave di lettura, diciamo l'ordine pubblico è stato rispettato perché per fortuna non è successo niente. Sì, okay. E soprattutto andava fatto prima, perché giustissimamente, come dice lei, sarebbe veramente difficile far intervenire le forze dell'ordine durante un funerale per impedirgli funzione, sarebbe stato terribile dall'altro punto di vista. Sì, poi il reato vero è difficilmente individuabile. No, dov'è il reato? Esatto, l'elicottero, esatto. Infatti, sicuramente, ma non vedo dei reati da focalizzare in questa sono molto d'accordo. Mi piace un sms che ci arriva, è più che morale, dice, il discorso a prescindere dalle condanne, perché l'Agenzia delle Entrate non chiede a questi soggetti di dimostrare con quali redditi hanno acquistato i patrimoni che sono stati fatti vedere durante il funerale? Questo mi sembra interessante. Ostentati, Esatto. Massimiliano da Chieti, buonasera, prego. Pronto? Prego. Buonasera a tutti, sia in trasmissione che chi l'ascolto. Volevo intervenire brevemente sul caso Casa Monica, come è successo fino adesso. Sì. E io sono un compaesano del dottor Spinelli, Santino Spinelli, quindi conosco perfettamente la storia sia di Spinelli, i nonni hanno avuto il funerale con i cavalli, sei cavalli neri per il nonno, se ben ricordo, e sei cavalli bianchi per la nonna. Quindi volevo dire semplicemente, si è parlato, o meglio, sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua, quindi si è parlato di nulla, perché come qualcuno ha detto anche in trasmissione, allora se non ci sono gli strumenti normativi per impedire il funerale di una persona condannata, più o meno pluricondannata, ma rischieremmo che tre quarti del Parlamento non farebbe mai un funerale in chiesa, Quindi è un problema che non esiste, secondo me. Dal punto di vista ecclesiastico c'è la pietas, come si è detto, quindi il funerale andava fatto comunque anche nel caso di Welby, tra parentesi, quindi come cristiano mi sono indignato all'epoca, quindi aveva tutto il diritto di avere un funerale. Poi si potrebbe discutere. No, non aveva il diritto, perché la Chiesa stessa aveva detto questo è un suicida consenziente, diciamo, come tutti i suicidi in realtà, però dove non si riesce a trovare la minima possibilità di dire che non fosse la sua intenzione quella di togliersi la vita, e no, quindi non gliel'hanno permesso. Scusi, mi sono spiegato male, non mi sto riferendo a Welby, mi riferisco al caso Casamonica. Sì, okay. Sì. Anche se secondo me, da cristiano, anche il suicidio ha diritto al funerale. Chiudiamo la discussione. Sì, sì, ma il punto del funerale non è che si poteva impedire il funerale. Il funerale non è, nessuno vuole impedire il funerale. Precisiamo questa cosa qua. Andava deciso che non ci doveva essere un corteo associato a quel funerale. Il funerale, in chiesa, dove volevano farlo, potevano tranquillamente farlo. Il punto è se le autorità di Roma hanno gli strumenti per decidere se un corteo di quel tipo lì, da parte di un clan di criminalità, se non proprio mafioso, deve essere fatto oppure no. Se, come adesso sembra, ci si straccia le vesti e personalità autorevoli dicono che non andava fatto, allora il punto è perché è stato fatto. Questo, capito? Poi il funerale, nessuno nega il funerale. Sì. No, io temo che il problema non sussista comunque, perché non credo che ci siano strumenti normativi per dire tu come deve avere il funerale. Come non ci sono altre volte i funerali vengono fatti in orari la mattina molto presto con poche persone, non vengono autorizzati i cortei per questioni di sicurezza e di sensibilità, e questo è quello che accade se c'è una condanna, secondo me, giustamente. Certo, se c'è una condanna o se si ritiene che ci sia una pericolosità di qualche tipo, e questo è quello che succede. Massimiliano, buona serata, grazie, arrivederci. Titoli della 7, vai. No, non ci sono, niente titoli. Allora andiamo con un altro ascoltatore, oppure Omar ci... No, mi veniva appunto, e poi mi veniva da commentare, no, il re di Roma, anche sì. Lì si è fatta Roma è indignata perché il vero re di Roma è Totti. Ah, sì. Quindi mi raccomando. E tra l'altro in questo cartellone lui era anche un po' papalino, nel senso che era tutto un po' sfumato, sì. Aveva un enorme crocifisso addosso, c'era sia il Colosseo sia, era una specie, quindi, di più che re papa, fotomontaggio, sì, era quasi papa. Capisco il polverone. Esatto. Andiamo con Matteo che chiama da Brescia. Pronto, buongiorno, buonasera. Buonasera, Matteo. Buonasera. Io anch'io do questa nota stonata, che sono d'accordo col parroco dei Salesiani che ha celebrato il funerale, sono d'accordo con gli ultimi ascoltatori. Anch'io dico che, nonostante tutto, a Welby cristianamente andavano fatti i funerali, comunque, perché era stata una richiesta dei suoi parenti, non perché fosse suicidio o meno, solo semplicemente seguendo quel principio di pietas, appunto, che diceva l'ascoltatore precedente, che dovrebbe animare tutte le opere della Chiesa. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, e io non capisco perché Rosy Bindi l'abbia iniziata, perché da quello che so è stata Rosy Bindi a iniziare tutto. Ma perché non sta un attimino calmina quella donna? Lei ce l'ha con Rosy Bindi, ma perché? Un pochettino, perché sulla faccenda lì alle elezioni, quando è andato un po' a inficiare quella che è stata una grande vittoria di De Luca, che la farà anche a meno di muovere tutto quello che ha mosso. Ci sarebbe mosso forse anche senza di lei, però perché andare a metterci il becco anche adesso? Un'altra tempesta in un bicchiere d'acqua, quando magari poteva dire il funerale si poteva fare fuori dal quartiere in un posto un po' più defilato senza bloccare il traffico. L'unica cosa al contrario era questa, l'elicottero, per carità, ci mancherebbe altro, non doveva sorvolare. Poi per il resto un po' di cazzata. Sorvolare su un elicottero è perfetto. No, non dovevano farlo. Svulazza. Allora andiamo con i titoli della 7, ciao, poi Gnaro. Torniamo. No, saluto il bresciano. Il bresciano, Gnaro. Infatti, immaginavo che si potesse creare una liaison con l'ascoltatore di Brescia. Titoli della 7, vai. Lo tsunami finanziario cinese travolge i mercati, la borsa di Shanghai crolla a meno 8,8%, è il peggior ribasso dal 2011, sulla scia della svalutazione dello yuan e delle inferiori previsioni di crescita. A picco tutte le borse europee, Milano chiude a quasi meno 6, Wall Street apre a meno 5, poi recupera, bruciati in un giorno più di 400 miliardi di euro. caso Marò, il Tribunale del Mare di Amburgo ha deciso no al rientro di Massimiliano Girone in Italia, ma la competenza del processo non è indiana. Della vicenda si occuperà la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, che ha sede all'Aia. Il ministro Gentiloni, deluso a metà, speravamo in un'altra sentenza, dice. Emergenza migranti a Dresda, nazi in piazza contro i profughi. Merkel chiede a Italia e Grecia di identificare il prima possibile i rifugiati. In Germania le stime per il 2015 parlano di 800.000 richieste di asilo. Tensione alle porte di Milano, a Bresso profughi bloccano una strada, chiedono condizioni più umane di accoglienza. Nessun responsabile per il funerale show del capofamiglia Casa Monica a Roma. Il prefetto Gabrielli dice: è stato fatto un fatto grave, ma non farò rotolare teste, se necessario sarà il ministro a farlo, e annuncia un coordinamento per indirizzare ai vertici del sistema le informazioni che servono. Unioni civili, dopo la presa di posizione della CEI, che chiede di non equiparare le coppie gay alla famiglia tradizionale, il ministro Galletti replica: un rispetto per Bagnasco, ma la politica deve fare le leggi, voto entro l'anno, fa sapere Del Rio. A sinistra e a destra molti chiedono di approvare la legge con qualche compromesso. A Sirte l'ISIS crea un emirato con leggi fondamentaliste islamiche. L'esercito del califfato inneggia al Nord Africa come terra della jihad che appartiene a tutti i musulmani e lancia sul web nuove minacce all'Italia. La Libia è la porta per arrivare a Roma. E il prete mi diceva sempre: non toccarti che San Luigi piange. Ma... io so che piange, ma... Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori. Buonasera di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Con noi Omar Pedrini. Buonasera. So che non è facile per te. Abbiamo l'originale, abbiamo. Allora, so che non è facile per te. Andiamo con un ascoltatore. Con chi andiamo? Andiamo con Carlo da Bologna. Carlo? Buonasera. Buonasera. Ci sente? No, non ci sente. Sì, sì, eccolo bene. Qua, prego. Sì, niente, volevo intervenire in merito all'argomento che state trattando adesso in onda, era legata a Monica. Sì, la sentiamo così così, prego, dica. L'altro radioascoltatore comunque ha detto che è un funerale che di solito viene praticato per tutti i dom, però io non mi sembra che abbia mai visto in passato un funerale di questo tipo per nessun altro, o non è morto mai nessuno. Beh, no, in quel modo lì anch'io direi che insomma con quello sfarzo e con quella, diciamo, corteo di qualche chilometro, non credo, insomma. No, però la modalità, quello che ci veniva raccontato è che la modalità è quella. Invece ci sono stati raccontati questo funerale della nonna e del nonno, che l'abbiamo raccontato più di una volta, in cui avveniva sempre con i petali di rosa, non da un elicottero ma lanciati a mano. Sì, in cui vabbè, quella era la modalità. Di rosa, ma l'elicottero no, ah, no, dai, stavamo dicendo che, no, quella era che quella è la modalità. Poi dopo lo sfarzo è quello, dipende dalla famiglia, è ovvio, non è che se non ce li hai soldi non è che li puoi far vedere il giorno del funerale. Grazie, grazie, che lei buona serata. Adesso vi facciamo conoscere un altro ospite. È un uomo di destra, ma crede che l'accoglienza degli immigrati non sia un valore da lasciare alla sinistra, ai suoi avversari politici, anche perché lui di profughi in casa ne ospita 17. È con noi Roberto Gabellini, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Buonasera. Un passato, diciamo, di simpatizzante, militante, elettore di destra. Sì, sì, Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale. Sì. E poi ho mollato, nel senso che mi sono dedicato più al civismo e alle cose concrete della città, via. Ecco, e questa è la cosa interessante, questa svolta. Lei si interessa alle cose concrete della città, per esempio anche ospitare quanti profughi in una sua casa, in una sua abitazione? Allora, sono 17, però diciamo che non sono, sì, io il protagonista, perché a me mi ha contattato un'associazione e io l'ho affittata, quindi diciamo, ottengo un affitto, quindi sì, non è che sia un eroe, no, no, no, certamente, anzi, però lei in un'intervista che a noi, diciamo, ci ha colpito, sì, ha detto questo: l'accoglienza la può fare anche uno di destra, anche se in questo momento molti partiti di destra, Fratelli d'Italia, la Lega, un po' anche Forza Italia, hanno delle tesi politiche contro lo sbarco degli immigrati, contro l'invasione, prima gli italiani, eccetera eccetera. E in più lei dice però anche, e lo faccio anche perché ci guadagno. Io in effetti sono riuscito ad affittare una casa che era sfitta, e quindi nello stesso tempo il progetto mi è sembrato intelligente. Ho visto gli educatori, ho visto l'associazione della quale conoscevo la presidente, sì, motivatissimi, e io mi sono buttato in mezzo, nel senso che gli do una mano, cerco di non gli ho solo affittato l'appartamento, ma diciamo collaboro con loro in tante piccole e grandi cose. Chi sono le persone, esatto, che stanno lì? Sono ragazzi che sono arrivati dal Bangladesh, sì, colpiti da una grave alluvione. Sono profughi, anche, richiedenti, sì, diritto, sì, sono profughi, sono profughi riconosciuti, tutti, sì. E quindi, ma hanno una volontà di ferro, studiano veramente tutti i giorni, 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio di l'italiano, poi si danno da fare nel giardinaggio, stanno predisponendo alcune cose, insomma il progetto è molto, molto ambizioso ed articolato. Cosa, adesso poi ce lo racconterà anche meglio come funziona anche dal punto di vista economico, ma cosa risponde a chi dice, o potrebbe dire sentendola, ma perché non fa la stessa cosa con gli italiani in difficoltà, che sono senza casa, che dormono nelle roulotte, che non hanno un lavoro, non sanno, posso pagare l'affitto? Il problema è semplicissimo, io non voglio essere sicuramente considerato un eroe, io ho unito l'utile al dilettevole, se vogliamo, per il semplice motivo che oggi come oggi è un po' come trasformare l'acqua in vino. Mi è stata fatta questa proposta, in precedenza non ho avuto proposte. Se il sindaco di Coriano, di Rimini, mi avesse detto ma tu puoi mettere a disposizione la tua casa, io probabilmente l'avrei fatto, no, per alcuni mesi ovviamente. Quindi perché non ci sono politiche per altre categorie di persone che hanno bisogno. Esatto, quindi invece il 6 agosto ho ricevuto questa proposta, hanno, sì, visto su internet la mia casa che era in vendita o in affitto, la sono venuti a vedere e mi hanno chiesto, dice ma tu saresti disponibile, per, sai, facciamo questo, questo, questo, se il progetto è serio, dietro non ci sono partiti e non ci sono partiti, a quel punto sono stato pienamente d'accordo di intraprendere questa avventura nuova per me. E quanto incassa però lei, possiamo dire? Io prendo, no, sì, tranquillamente, prendo 2.300 euro lordi, tutti regolari, sono oltre 300 metri. Al mese, stiamo dicendo? Sì, sì, al mese, e ovviamente io poi ho fatto tutte le, diciamo, ho messo la caldaia nuova con un boiler, perché per far lavare 18 persone la caldaia normale non bastava. Diciamo, ho investito parte di quei soldi, io penso di spendere intorno ai fini di 7-8 mila euro per queste cose, per lavatrice, frigorifero, cucina economica, eccetera, per poter ospitare queste persone. Diciamo, certo, sono spese che mi sono accollato, quindi io la mettevo in affitto a 2.000 e poi abbiamo. Cioè, io mi sono. Ma è andata fin bene, direi, quindi. No, ma io sono semplicemente contento ed ho, visto che sono pensionato, do la mia opera, diciamo, gratuitamente per quello che posso fare, e cercherò di insegnare. Perché cosa ragazzi fa? Io sono pensionato, sì, sì. Se sono pensionato ero No, ma siccome ha detto donerà la sua opera, in che senso, in che modo? Beh, io ho sempre fatto, diciamo, il giornalista sportivo prima, come hobby, e quindi cercherò di far inserire questi ragazzi nel mondo dello sport, cercare di insegnargli anche il computer, i primi rudimenti, quindi, cioè, cercare di essere coinvolto più con loro che con i social, dove, avendo io un sito, una pagina Facebook a Rimini, la Rimini che vorremmo, che ha circa 10.000 sì, iscritti, e quindi cercare di stare meno su internet e dare una mano a questi ragazzi. Ma anche perché lei fa politica, giusto? Tuttora? Beh, io faccio politica però in un ambiente civico, nel senso che io penso che oggi come oggi le ideologie stiano scemando e quindi bisogna guardare i progetti, la concretezza, non si può continuare a guardare allo specchietto retrovisore, bisogna guardare avanti e capire che ci sono fenomenologie che non dipendono da noi. Questo fenomeno dell'immigrazione non è che dipenda da noi, ma tu devi saperlo affrontare, perché se tu non lo sai affrontare lo subisci. Invece in questo caso è come trasformare l'acqua in vino, tu da una cosa negativa puoi farla diventare una cosa positiva. Ma quindi lei non condivide, non so, appunto le tesi politiche che dicevo prima, prima gli italiani? No, io penso che gli italiani prima, ovvio, noi dobbiamo cercare di dare una mano ai nostri connazionali, però chi arriva a questo fenomeno deve cercare di gestirlo, e lo puoi gestire non parlando alla pancia della gente, ma cercando di usare il cervello. Io dico di solito una frase, non serve usare la testa solo per pettinarsi, bisogna possibilmente anche usarla. Io ho avuto un'opportunità e ho cercato di, diciamo, di sfruttarla, ma nello stesso tempo lo faccio con affetto, con cuore, e risolvo un problema, perché io ho un mutuo in quella casa e probabilmente se non avessi trovato questa soluzione la banca sarebbe venuta a prenderla, perché non riuscivo a star dietro a questo impegno. Certo, e ci sono state anche critiche da parte di persone di destra, perché ho letto in una sua intervista dove lei diceva: resto un uomo di destra e non capisco lo sdegno della destra, quando governava non ha fatto leggi incisive per regolare l'immigrazione. Esatto, ma io sono ancora convinto di questo, rimango destrorso, diciamo così. Però nello stesso tempo io penso che, diciamo, essere di destra non vuol dire essere anti, vuol dire affrontare il problema e cercare di risolverlo. E ci vuole buon senso, ci vuole impegno, ci vuole ovviamente anche la disponibilità, perché poi se uno non ha disponibilità fa fatica. Certo. Però, diciamo, io essendo riuscito a risolvere questo mio problema personale, io ora oggi ho tempo libero, posso vivere decentemente e quindi poter dare una mano a chi ha più bisogno di noi o di me, ma io lo farei ben volentieri anche con gli italiani. Infatti noi nei prossimi giorni inviteremo quella famiglia di padre e cinque figli a venire a pranzo e a cena da noi tutti i giorni. Ovviamente non possiamo ospitarli fisicamente perché non c'è lo spazio, però cercheremo di trovare una soluzione. Questo sarà anche un mio impegno, perché penso sia giusto, perché l'aiuto deve essere dato a tutti, non alcuni sì, alcuni no. Omar, ti viene in mente qualcosa sentendo questa storia? Sì, diciamo in chiusura. Questa si intitola Uno straccio d'anima e fa così: Italia, dammi la tua mano gelida e alzati, barcollando in tacco 12 e andremo via, via da questo ballo in maschera che non ti merita. Come prima ci stavi parlando anche un po' del tuo punto di vista, come descrive un rocker, un poeta, questa situazione ingarbugliata dell'immigrazione, queste pulsioni forti, contrapposte che ci attraversano? Ovviamente c'è la logica e c'è l'emotività, c'è il cuore e c'è il cervello, no? Col cervello ragiono sul fatto i barbari, no? Da sempre ci hanno fatto paura. C'è un piccolissimo testo di Bauman straordinario, ma il barbaro nel greco antico era lo straniero, e noi abbiamo sempre temuto gli stranieri, anche nell'antica Grecia, che sembrava. Quindi bisogna un po' superare questo ostacolo culturalmente. Dal punto di vista pratico, credo che talvolta, insomma, avere un aiuto e non essere lasciati soli in questa battaglia sia davvero il momento di pretenderlo. Omar Pedrini, lo voglio dire, condivido. Prossima data, giovedì 27, Rocca Imperiale, Festival Cosenza. Della Poesia, e poi sarà il 31 agosto anche dalle parti di Gorizia. Già che ci siamo, il 5 in Valtellina, Tirano, in provincia di Sondrio. 5 settembre. Chiudiamo. Perfetto. Con un altro ascoltatore, Pasquale da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo dire questo, io ho suonato nella banda che ha suonato ai funerali del Casa Monica. Oh, questo è uno scoop. Sì, sono un testimone diretto. Cosa suonava lei? Guardi, preferisco non dirlo, anche il nome è inventato, no, perché cioè, lo strumento non si sì, può. Ma lo strumento preferisco non verrebbe dirlo, individuato. Allora, individuato immediatamente, capisce? Le leggo un sms però, che ci scrivono: io suono in una banda e da quel che ho sentito in radio della musica del padrino riguardo il funerale di Casa Monica erano stonati come campane. Gigliola da Rovereto, che cosa risponde? Sì, guardi, eravamo stonatissimi, ma le spiego, noi siamo andati di lì quella mattina credendo di dover suonare delle marce funebri. In realtà c'è stato imposto nessuno ci ha minacciato col fucile, però in maniera insistente di suonare questi tre brani, Il Padrino, My Way e Paradise. Ah, quindi voi non sapevate dove stavate andando in pratica? No, io no. Cioè siete stati ingaggiati per una marcia funebre e poi dopo avete scoperto. No, noi siamo stati ingaggiati come banda, sì, un po' raccogliticcia, come dire, di gente proveniente da varie situazioni, no? Sì. E semplicemente io l'ho saputo la mattina precedente, Pasquale, domani sei libero? Dico sì, ci sarebbe da suonare a un funerale. E io sono andato lì e mi sono trovato in questa situazione. In questa situazione. Però aspetti, io ho già suonato in molti funerali di Pasquale, io devo chiudere questa sera, però se lei ci sta, domani ci risentiamo, perché questa è interessante, senza entrare nel merito del nome e dello strumento, però adesso dobbiamo proprio chiudere. Grazie, buona serata, un ringraziamento. Grazie di cuore ad Omar Pedrini, grazie Omar, con noi. E poi naturalmente anche alla redazione, Cristian Goldoni, Grazia Gala, Andrea Piana, Leonardo Siligato, Riccardo Poli, è tornato anche lui, faccio fatica. Abbiamo una redazione straordinaria dietro la corte abbondante. In regia. E c'era persino la Marta. E c'era persino la Marta Cagnola ad assistere a tutto questo. Esatto. Ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizio. Carlo Gabardini. Ciao a tutti. Grazie Omar. Ciao.